con l'età in cui ti sei costruito le cose in cui credi. Quindi non è certo, io non appartengo a quella generazione di sfiduciati, sono quella generazione, sono degli anni 50, quindi sono invece che crede nel volere costruire, anche perché ho avuto i miei insegnanti che dicevano continuamente: voi sarete gli uomini di domani, siete quelli che sarete a capo della società di domani. Quindi io dico sempre che ognuno si deve assumere le proprie responsabilità Sì. nelle cose che fa. Certo che uno si sente tradita, si sente sola, quello sì. Ma lei tradita da chi? Me lo dica Flash. Chi è che da chi si sente più tradita? Ma io mi sento tradita anche dallo Stato, dalla scuola, che permette ai giudici di intervenire sulla didattica della scuola.